La politica alla prova. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito, qui da Montecitorio, dove appena scoppiata una bagarre proprio in aula, qui durante la discussione sul disegno di legge per le riforme costituzionali, bagarre provocata da Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle, da sempre uno dei più pasdaran, e che praticamente in aula ha dato dei ladri a PD e PDL. Loro non l'hanno presa molto bene e quindi praticamente Laura Boldrini ha fermato la seduta, l'ha sospesa, ha convocato la riunione del capigruppo che è attualmente in corso. Il Movimento 5 Stelle prosegue la sua protesta contro la riforma dell'articolo 138 della Costituzione, che ricordiamo è l'articolo che prevede una procedura fondamentale, procedura aggravata per cambiare la nostra carta fondamentale. Ma noi volevamo sapere che cosa era successo in aula e abbiamo sentito Walter Rizzetti, deputato del Movimento 5 Stelle. Nella storia repubblicana, ormai da quando esiste un'aula della Camera dei Deputati, si è stata interrotta più volte, quindi non diamo la colpa di Battista. Diciamo che il clima si è un po' surriscaldato dopo che noi abbiamo mostrato un innocente, foglio A4 a difesa della Costituzione, nello specifico dell'articolo cassaforte della Costituzione, cioè il 138. Ricordo tra l'altro ai deputati colleghi che insomma io in quest'aula ho visto fette di mortadella, ho visto magliette con delle scritte provocatorie anche da parte di altri gruppi politici, quindi che non si scandalizzino per così poco. Quindi insomma le provocazioni di Battista, che comunque è un po', no, una testa calda del movimento, secondo lei non è stata un'offesa al PD, al PDL, dire che non sono persone oneste, per usare un eufemismo? Di Battista ha espresso il suo punto di vista, ad un certo punto del suo passaggio ha detto che secondo lui il Partito Democratico in questo frangente si dimostrava peggiore rispetto al PDL, quindi è un suo punto di vista, insomma, però io ho sentito molto di peggio all'interno di quest'aula. Ecco. Senta, un parere di un deputato 5 Stelle, secondo lei il governo cade con la storia della giunta, Berlusconi, la decadenza? Ma tecnicamente il governo prima di cadere il governo deve avere una crisi fondamentalmente, deve subire una crisi. È molto probabile che ci sarà questa crisi. Una cosa simpatica che è accaduta oggi alla Camera, quando Di Battista ha detto che il PD è peggio del PDL, la Presidente Boldrini si è lasciata scappare, non offenda. Penso che la Presidente insomma con questa parola, con questa frase, insomma, che probabilmente gli è uscita proprio così spontanea, ha sancito l'inizio anche di una crisi, insomma. Però una crisi è nell'aria, una crisi è palpabile. Vediamo se questa sera in giunta ci sarà un voto. Qualora non ci fosse un voto, insomma, si rimanderà di qualche ora, però la crisi ormai sembra quasi inevitabile. Però c'è un accordo, Movimento 5 Stelle e PD al Senato. Questo si potrebbe riproporre per magari fare la legge elettorale e andare al voto? Ma io non sono a conoscenza di nessun tipo di accordo. Giunta, nel senso che voteranno ugualmente. Insomma, mi sembra che il voto di giunta sia un voto da parte di Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico assolutamente necessario, insomma. Mi meraviglierei del contrario, ovvero insomma, che il PD non votasse per la decadenza di Berlusconi, però non vedo nessuna alleanza in corso. E questo era Walter Rizzetto, Movimento 5 Stelle, che come avete notato smentisce una possibile alleanza, qualora ci fosse la crisi di governo, tra Movimento 5 Stelle e PD, quindi ribadisce la linea di Beppe Grillo. Ricordo gli sms al 349-238-6666 e c'è subito Marco da Fermo che ci scrive: Berlusconi in 20 anni è riuscito a ipnotizzare le menti della povera gente che lo vota. Andiamo proprio a Silvio Berlusconi, perché è chiaramente la crisi paventata dal PDL poi l'altra notizia politica della giornata, e questa crisi dovrebbe essere provocata da un voto molto duro del PD in giunta per le elezioni e l'immunità del Senato. La giunta si riunirà stasera alle 20, il PDL è sempre sul piede di guerra, Lucio Malan ha presentato un'altra pregiudiziale, la quarta sulla legge Severino, dopo le tre presentate dal relatore Andrea Augello ieri. Allora sentiamo se ci sarà la crisi e che cosa vuole il PDL da Iole Santelli. Per stare al governo con una forza politica bisogna avere un minimo comune denominatore, perlomeno una identica considerazione sul concetto di democrazia, di libertà e in questo caso anche di stato di diritto. Il PDL sta chiedendo che su una norma come quella dei decreti legislativi della legge Severino sulla decadenza è una norma sulla quale in relazione alla retroattività dell'applicazione di questa, moltissimi giuristi, buona parte dei quali anche di sinistra, hanno espresso molti dubbi. Su questa norma si discuta, si prenda atto di tutti questi dubbi, quindi si discuta di diritto. Voi che chiedete? Solo un po' di tempo, magari una settimana? No, noi chiediamo una discussione, noi chiediamo una discussione seria. Lei sospetta un mini accordo tra Movimento 5 Stelle e PD, magari per andare al voto con una nuova legge elettorale? No, io mi aspetto che in questo momento il PD, cioè quello che vedo è che in questo momento il PD è prigioniero totalmente di Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è salito sul tetto della Camera, guarda tutti dall'alto in basso e detta la linea. Il PD non è costretto a seguire perché ha paura di esistere e di dire quello che pensa. E purtroppo ha campato di giustizialismo e in qualche modo ha accarezzato la bestia. Ora la bestia si è rivoltata contro di lui e deve in qualche modo seguirla. Dopodiché il giorno dopo sarà un problema serio per chi ha promesso di governare il paese, perché certo con il Movimento 5 Stelle non governa. Perché che succede alla Camera col Movimento 5 Stelle? E c'è stata l'esposizione di alcuni cartelli, molto tempo per riuscire a tirarli, dopodiché non si è ben capito perché doveva sembrare un flash mob, nel senso che tiravano su tutte e due le mani. Ma essendo occupati anche a votare, quindi alcuni utilizzando una sola mano, io non ho capito, più che flash mob a me mi sembrava che ballassero la cucaraccia. E questa era Iole Santelli del PDL, il Movimento 5 Stelle in aula, secondo la Iole Santelli, quindi ballava la cucaraccia. Ma ricordiamo invece che è in atto la protesta dei 5 Stelle contro la revisione dell'articolo 138 della Costituzione. Molti vostri sms, Berlusconi ma quanto ci costi? Hanno ragione i grillini, ci stanno portando alla sudditanza, altro che popolo sovrano, spero che la gente capisca e finalmente si faccia sentire, grazie Gabri, mandate Berlusconi al suo domicilio subito. Stefano da Prato dice, mentre le menti libere del PD sono state prese in giro da molti figuri di sinistra. Allora, che cosa succede nel Partito Democratico? Che il Partito Democratico su questa cosa della giunta non si smuove di una virgola, non retrocede, sono pronti a votare con il Movimento 5 Stelle per il rispetto della legge Severino e quindi di conseguenza per la decadenza di Silvio Berlusconi. Allora, sentiamo Cesare Damiano. Ma il PD non retrocede dalla linea della saggezza. Io credo che le nostre scelte siano unitarie, fin dall'inizio sono state chiare, abbiamo separato il destino di un uomo pur importante, capo della coalizione del centrodestra, da quello del governo, il destino di una persona e dei suoi problemi giudiziari e i problemi del paese. Quindi io penso che il PDL stia tirando la corda, non penso che spezzeranno la corda. Ma voi sentite sotto ricatto? No, io non mi sento sotto ricatto nel momento in cui la nostra posizione è chiara e non è stata influenzata dai pasdaran, dai falchi del centrodestra che non hanno perduto un'ora dell'ultimo periodo a insultare il governo, insultare il Partito Democratico, insultare il nostro segretario e così via, i nostri ministri. Noi procediamo per la nostra strada perché al primo posto abbiamo i problemi del paese, i problemi li conosciamo. Io poi, insomma, dalla cassa in deroga ai licenziati, alla correzione delle pensioni, al problema delle tasse sul lavoro e sull'impresa troppo alte, credo che questo sia il vero problema. Ma voi però in giunta non avete nemmeno detto va bene, adesso un attimo aspettiamo, sentiamo la relazione di Augello, vediamo, non... la legge per voi è chiara, la legge Severino? La legge è chiara, lasciamo che coloro che stanno nella giunta al Senato prendano le loro decisioni. Siamo compatti, compattissimi, ma penso che la nostra sia una posizione assolutamente ragionevole e limpida. E c'è già chi nel Partito Democratico si prepara alla possibile corsa elettorale, indovinate chi è? Matteo Renzi, almeno a questo dice Roberto Giachetti, dice il dopo Berlusconi, un tema questo che per Renzi non è una novità, è già pronto al leadership, bisogna semplicemente fare il congresso del partito. È che nel PD non è mai una cosa troppo semplice fare i congressi. Allora, molti vostri sms, Piero ci dice, ma Italia la spesa pubblica mai? Giorgio il Grande è lì da 60 anni, c'è altro da aggiungere? Immagino che si riferisca a Giorgio Napolitano. È invece la mia dote prima, disobbedire nell'obbedienza, il verbo, la parola stessa un potere magico. Credo che si riferisca alla trasmissione di Matteo prima. Dopo Berlusconi vedo bene Brunetta, sarebbe proprio un leader all'altezza. Questo un po' cattivo, questo radioascoltatore. Lino da Trento dice: ora di cacciare il pregiudicato truffatore. Allora, Lino ha questa praticamente opinione come Di Battista. Io intanto vi saluto e vado a vedere che cosa succede in capigruppo qui alla Camera. Un saluto a Elisabetta Fiorito.